Now check that you've heard and understood the information the receptionist gives you. A good way to do this is to repeat it and then add the word bene, which is a way of saying right or okay. Ascolti l'esempio. La camera è la 37. La 37? Bene. Here's Lorenzo's answer again. Repeat it and copy the rising and falling intonation. La 37? Bene. Now it's your turn. After the pause, you'll hear the correct response and you repeat it. La camera è la 37. La 37? Bene. È al terzo piano. Al terzo piano? Bene. L'ascensore è a destra. A destra? Bene.